Lettera inviata a Roma da Venezia, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 22 marzo 1551. All'illustrissimo e onorandissimo signore Giovanni Pietro Carafa. Signore mio osservandissimo, i 3 mesi di permanenza in questa enorme e bizzarra città sono stati sufficienti a suggerirmi quella che reputo l'unica strategia praticabile contro i giudei. Mi affretto quindi a darne conto alla Signoria vostra, affinché possa esprimermi il più saggio parere sopra di essa e concedermi il privilegio di servire ancora agli scopi comuni. Gli equilibri di Venezia sono intricati e complessi quanto le sue calli e le sue vie d'acqua. Non vi è informazione o accadimento più o meno segreto che non incontri sul proprio cammino gli occhi o le orecchie di una spia, di un osservatore straniero, di un mercenario al soldo di qualche potente. Io stesso, per poter accedere alle notizie sotterranee, ho dovuto adottare lo stesso metodo. Agli affari che incessantemente ogni giorno si svolgono alla luce del sole corrisponde un volume uguale o maggiore di maneggi, traffici e accordi occulti che riguardano ogni ambito della vita della Serenissima. Il sultano ha le sue spie in Rialto, così come il re inglese e l'imperatore Carlo. Il Gonzaga aveva i suoi informatori tra le file stesse del clero veneziano, come la signoria vostra sa bene. I grandi mercanti manovrano nell'ombra per non lasciare trapelare gli accordi commerciali e non veder sfumare le migliori occasioni di guadagno. Nessuno, sia esso principe o mercante, potrebbe sopravvivere a Venezia se non potesse avvalersi di una rete di abili spie, in grado di riferire rapidamente sui giochi di potere interni ed esterni alla Repubblica di San Marco. I giudei non svolgono una parte secondaria in questo genere di rapporti, anzi, il loro appartenere solo per metà a Venezia, il ruolo di banchieri e finanziatori, la doppia religione, ne fanno uno dei cardini portanti della vita commerciale e politica della città. Questa loro posizione, da un lato, li fa sembrare inattaccabili, dall'altro, ci indica il loro punto debole. Molte delle famiglie giudee si sono convertite alla fede cristiana per togliere ogni possibile intralcio ai loro affari e difendersi da qualsiasi attacco. Questa dissimulazione può essere loro rinfacciata e diventare essa stessa il fulcro di una diffusa avversione nei loro confronti. A questa si aggiunga che in molti casi il turco si avvale proprio della consulenza e dell'abilità dei finanziatori giudei per rappresentare a Venezia i propri interessi. Ne sono un ottimo esempio i Mendesi, già responsabili della diffusione del beneficio di Cristo, che intrattengono relazioni commerciali e diplomatiche con il sultano. Se si riuscisse a ricondurre alle grandi famiglie giudee la rete di spie turche attive nei territori della Serenissima, non sarebbe difficile additarle alle autorità come responsabili di una congiura che minaccia gli interessi di Venezia. Poiché i giudei sono oltremodo esperti nel far credere che la loro rovina sarebbe la rovina di tutti, occorre che tutti comprendano quale sarebbe il vantaggio di una vasta operazione contro di loro. Attribuendo ai giudei tutti gli intrighi, ciascuno potrebbe condurre i propri con maggiore tranquillità. A nessuno sfuggirebbe l'utilità di questa strategia. L'accusa di falsa conversione permetterebbe ai veneziani di sequestrare le ricchezze dei giudei, rimpinguando le casse dello Stato. Quella di congiurare con il sultano escluderebbe l'eventuale intervento in loro favore da parte delle potenze cristiane. Attendo con fiducia il parere di vostra signoria, raccomandandomi alla sua benevolenza. Di Venezia, nel giorno 22 di marzo 1551, il fedele osservatore di vostra signoria, Q.